L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata che dedichiamo ancora una volta a COP21, ovvero l'accordo per il clima che si è raggiunto a Parigi esattamente una settimana fa. Lo facciamo questa volta però non tanto parlando dell'accordo in sé, come abbiamo fatto sabato scorso, ma delle implicazioni che può avere nella nostra vita quotidiana, perché non è un accordo che riguarda altri pianeti, altri cittadini, persone che non vivono qui con noi, bensì ci riguarda tutti da vicino e ci riguarda nel nostro vivere quotidiano. Mi è stato proprio chiesto questo anche da colleghi, ma insomma che implicazioni avrà nella nostra vita? Ebbene, di questo oggi parliamo. La nostra prima ospite è Anna Gerometta di Cittadini per l'Aria, un'associazione che già ben conosciamo. Ben ritrovata, Anna. Grazie, buongiorno a tutti. Parliamo di riscaldamento del pianeta. Il riscaldamento si ottiene e si ottiene purtroppo si ha con l'utilizzo soprattutto di combustibili fossili, per esempio, che sono gli stessi che poi provocano quel grande inquinamento che c'è nelle nostre città, specialmente a Milano, in Lombardia, in tutta la pianura padana, no? In questo periodo. Direi che questo è il primo evidente collegamento. Sì, certo, a parte che anche a Roma è un mese, non va meglio, la certo. Situazione è particolarmente grave, quindi diciamo che questo effettivamente risvolto sanitario delle politiche climatiche è effettivamente un tema su cui sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sia HIO, che è un'associazione europea che raccorda le politiche dell'ambiente con le politiche sanitarie, insistono tantissimo. Le politiche del clima sono politiche che beneficiano la salute dei cittadini di tutto il mondo. Questo il mio era un esempio banale e pratico per, diciamo, far capire che c'è un collegamento immediato e un riscontro migliorativo nel caso in cui le politiche per il clima venissero attuate immediatamente, magari via via, se l'obiettivo diventasse sempre più ambizioso, certo. No? come si è detto in questo periodo. Certo, assolutamente. Il punto effettivamente è che quello che gli scienziati e i ricercatori hanno ormai assodato è che effettivamente i cambiamenti climatici generano sul territorio dei cambiamenti, effettivamente, che provocano degli impatti sanitari. Pensiamo per esempio alla diffusione di insetti che trasmigrano da area del pianeta ad area del pianeta e che si trovano bene. Portano malattie. Pensiamo alle ondate di calore. L'ondata di calore del 2003 in Europa ha fatto 70.000 morti. Queste ondate di calore, secondo le previsioni, saranno sempre più diffuse e sempre più frequenti, e quindi questo è un tema che dal punto di vista sanitario diventa assolutamente primario, perché chiaramente qualche cosa a cui si deve reagire creando una situazione che consenta di sopportare le ondate di calore, ondate per esempio il verde. Esattamente. Quindi pensiamo solo che ISPRA ieri proprio o due giorni fa ha emanato un comunicato in cui si dà il dato del fatto che delle 85 maggiori città italiane 65 hanno meno del 5% di verde nel loro territorio urbano, che è chiaramente una quota, una follia, sì. È una assolutamente quota ridicola, inaccettabile, certo. Inaccettabile. Tra l'altro le ondate di calore, mi ricordavi prima, fanno sì che anche i periodi delle grandi allergie, no? Siano allungati nel tempo, che quindi chi ne soffra per più tempo e ne soffre in maniera anche più cattiva, diciamo, certo. Così. Perché infatti uno dei temi di cui purtroppo si parla poco è l'impatto crescente delle allergie sulla popolazione, sia appunto, come dicevi tu, perché le stagioni calde e di diciamo inflorescenza si allungano. In questo periodo io ho insomma contatti che mi dicono che in Piemonte ci sono alcuni alberi che stanno per fiorire, ma anche in Toscana, sì, sì. Che è assurdo, siamo a Natale. Ma a Milano vediamo alberi fioriti, io sono... No, ma parlo anche delle campagne, ecco, sì. Non solo dell'effetto serra micro, certo. Di Milano, ma anche, certo. In campagna. Certo, certo, certo. Quindi ecco, le allergie durano più tempo. E poi le allergie sono più aggressive, perché in realtà gli inquinanti dell'aria interagiscono con i pollini e potenziano l'impatto dei pollini. E questo è un motivo in più per tutti quelli che soffrono, per tutta la popolazione, per veramente impegnarsi a ridurre nella loro vita quotidiana l'impatto, sia nell'uso dell'automobile, sia nell'uso... Il tutto in un quadro però di politiche nazionali ed europee, perché questo accordo è stato molto festeggiato in Europa dall'Unione Europea, che ci teneva molto, però che poi deve tradurre questo anche in direttive. Mi pare che su questo punto non andiamo benissimo. Non andiamo bene, perché mercoledì scorso si è tenuta la riunione del Consiglio dei Ministri dell'Ambiente a Bruxelles, che aveva come oggetto il far procedere la fase di legiferazione della direttiva sui limiti alle emissioni nazionali. Il testo che è arrivato dalla Commissione e dal Parlamento Europeo, che era piuttosto buono, ambizioso, è stato dal Consiglio dei Ministri europei svuotato sostanzialmente di grandissima parte del suo significato. Originariamente l'obiettivo della Commissione era di arrivare ad un testo che riducesse le morti in Europa al 2030 del 52%. Si è arrivati ad un testo che riduce le morti in Europa, presumibilmente al 2030, al 48%, sostanzialmente aggiungendo 6 punti percentuali rispetto allo scenario in cui non si facesse nulla, se non si farà nulla, e quindi mantenendo le politiche attuali, le morti da inquinamento dell'aria in Europa si ridurranno del 42%, senza far nulla. Il testo previsto, il cui livello di ambizione era buono e proposto dalla Commissione, prevedeva che la si arrivasse al 52. Il Consiglio dei Ministri di mercoledì ha ridotto al 48% della... Se riduce questo obiettivo, vuol dire che riduce le politiche sulle emissioni. E certo, e che cosa è successo? A una settimana di distanza dalla COP21. Assolutamente, hanno tolto, estrapolando dal testo, il metano, che fra l'altro per casa nostra è un problema serio, perché il metano è un precursore dell'ozono. Noi abbiamo l'ozono alle stelle in varie aree del paese. Quindi il metano tolto dagli inquinanti. Tolto il metano, si è ridotto fortissimamente il livello di ambizione delle riduzioni di ammoniaca, che ha subito le pressioni fortissime delle lobby dell'agricoltura. In particolare l'Italia è partita da uno scenario di riduzione richiesto dalla Commissione del 22% per le emissioni di ammoniaca ed ha accettato una riduzione del 14%, che è quasi, non dico la metà, ma insomma decisamente inferiore a quello che l'Italia avrebbe potuto fare. L'Italia non si sta portando bene, neanche era uscito qualche tempo fa anche sulla parte che riguarda le emissioni delle auto dopo lo scandalo Volkswagen, il cosiddetto Dieselgate, anche qui c'è tutta una trattativa in corso a Bruxelles per la decisione di queste due nuove sistemi di test, uno Real Drive Emission e un altro sistema di test in laboratorio. Real Drive è quello su strada. Quello su strada, esatto, è quello che dovrebbe consentire effettivamente dal 2017 in poi di testare le automobili con questi PEMS, che sono questi dispositivi portatili, e che quindi dovrebbero effettivamente documentare il vero livello di emissioni degli ossidi di azoto delle automobili, perché sappiamo che il problema degli ossidi di azoto è oggi come oggi il problema inox, famoso inox. E l'Italia non si sta comportando bene, perché in entrambe queste trattative da un lato aveva chiesto che il fattore di conformità in questo test fosse del 300%, e quindi sostanzialmente aveva proposto che venissero rialzati di 3 volte il limite di 80 microgrammi per chilometro stabilito nel 2007 dagli Stati europei. Quindi diciamo che c'è una certa incoerenza, soprattutto considerando il bilancio di morti che, come sappiamo tutti, l'Agenzia Europea per l'Ambiente ci ha dichiarati primi in classifica quest'anno. E quindi evidentemente ci aspetteremmo dal governo italiano un atteggiamento ben diverso in sede di negoziazione. Non rialziamo i limiti. Ecco. Non rialziamo i limiti. Tornando alla direttiva sui limiti alle emissioni che dicevi in discussione a Bruxelles questa settimana, abbiamo detto il metano, abbiamo detto la parte dell'ammoniaca che riguarda l'agricoltura, ci sono altri elementi da segnalare di disillusione rispetto alle aspettative? Beh, certamente sono state inserite alcune flessibilità che sono assolutamente ingiustificabili, è stato praticamente inserito un conteggio dei limiti, diciamo delle emissioni triennale invece che annuale, nel caso in cui ci siano estati calde, inverni freddi, cioè una serie di variabilità che naturalmente renderanno naturalmente la direttiva molto più difficilmente applicabile. Poi rispetto al 2025 sia il Parlamento europeo che la Commissione sostanzialmente si chiedeva, come tutti gli ambientalisti, poi si chiedeva che si anticipasse una soglia di ambizione al 2025 in modo da fare in modo che effettivamente le azioni venissero anticipate rispetto al 2030 in modo tale da cominciare ad avere un target già al 2025, è stato eliminato, quindi liberi tutti fino al 2030. Certo, non è che fai tutto in che due anni, però... Che punto è questa discussione? Ci sono allora, altri passaggi? In questo momento, sì, no, per fortuna, nel 2016 si passerà di nuovo al Parlamento europeo, per cui speriamo che effettivamente il Parlamento europeo faccia in modo che il Consiglio dei Ministri, diciamo, ricalibri il suo livello di ambizione al rialzo. C'è una cosa che vogliamo dire, che tu soprattutto so volevi dire agli ascoltatori, che riguarda l'Europa, di una buona iniziativa, che è quella che riguarda i medici. Esatto. Ecco, chiudiamo su questa buona notizia. Abbiamo detto tutto quello che possono implicare i cambiamenti climatici per la salute, quindi i medici sono anche il primo tramite per formare, diciamo, o informare il cittadino dell'importanza di certe politiche per il clima, che sono poi appunto politiche per la salute. Cosa sta accadendo in Europa? Come sarebbe bello portarlo qua? Ecco, sì, questa è una cosa molto un'iniziativa molto utile che HIL, appunto questa associazione europea con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche tramite l'ANSET hanno creato dei sistemi di webinar che sono sostanzialmente seminari su internet che spiegano l'impatto sanitario dei cambiamenti climatici e come effettivamente ciascun medico può comunicare ai suoi pazienti l'importanza di un atteggiamento proattivo e diciamo positivo sui cambiamenti climatici. Quindi sarebbe bello se noi riuscissimo, per esempio, con l'aiuto di qualcuno a portare in Italia, facendoli fra virgolette diventare italiani, anche un po' italiani, questo tema di comunicazione presso la classe medica. Quindi se ci fosse qualche ordine o disponibile. Grazie molte Anna Gerometta, ricordo Cittadini per l'Aria, presidente di Cittadini per l'Aria, grazie per essere stata con noi, a ritrovarci presto, spero. Grazie a te, ciao. Restate con noi perché ci ritroviamo tra pochissimo. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24. La passione si sente anche in viaggio. L'altro pianeta. Di nuovo buon pomeriggio da Laura Bettini, seconda parte dell'Altro Pianeta, continuiamo a parlare di COP21, questa volta però con imprenditori e dirigenti d'azienda, per capire quale sia la loro valutazione di questo accordo. Pietro Colucci, che conosciamo anni fa come presidente di Assoambiente, quindi l'associazione confindustriale che riunisce le imprese private che gestiscono servizi ambientali come trasporto, riciclo, compostaggio dei rifiuti, ora si occupa ad ampio spettro di green economy come presidente amministratore delegato del gruppo Waste Italia e presidente di Innovatec, azienda attiva nel settore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili. Cambio di passo c'è stato e questa è la prima cosa da dire per non essere sempre pessimisti. L'accordo è un accordo positivo, certamente che coinvolge tutti per la prima volta, in primis la Cina che si è spesa, Obama insomma, che è a fine mandato, quindi gioca facile, però certamente ha fatto un grandissimo pressing su questa operazione e alla fine il risultato si è avuto. Purtroppo è un risultato non impegnativo, nel senso che ad oggi è ancora affidato alla volontà dei singoli paesi partecipanti di aderire e le modalità con cui aderire, quindi tra virgolette non ha ancora un target obbligatorio. Da questo punto di vista è molto soddisfatto, da altri punti di vista direi meno, cioè appunto mancano degli impegni. Gli impegni che sono stati presi sono volontari, quindi ciascuno insomma si è dato l'obiettivo che si sentiva di darsi. Tra l'altro, da un punto di vista delle energie rinnovabili, ad esempio, non c'è la famosa decarbonizzazione questo è un grande pecca. Una grande pecca, anche perché ormai paradossalmente con lo spazio che si è creato sul prezzo del petrolio ci sarebbe lo spazio per una carbon tax, cioè oggi il costo della benzina ai nostri distributori è di fatto aggravato da accise infinite, ci sarebbe stato lo spazio anche per il nostro paese di inserire una carbon tax che in qualche modo andasse poi a compensare gli investimenti sul fronte delle rinnovabili, dell'efficienza energetica, della riduzione delle emissioni. Purtroppo su questo bisogna dire che per quanto Renzi formalmente si spenda, il governo non ha il bernoccolo verde. Il Ministero dell'Industria ha un approccio molto confindustriale, lo dico da aderente a Confindustria, quindi molto nella logica delle imprese manifatturiere di vecchio stampo, e quindi non fa passi in queste direzioni. Al GSE sono stati dati budget di riduzione degli incentivi, e quindi sta agendo tagliando a tutta forza i certificati bianchi che sostengono il mondo dell'efficienza energetica e quindi del risparmio di energia, quindi dei minori consumi, quindi una controtendenza rispetto al passato dove invece l'Italia è stata un po' pioniere, un po' driver del sistema insieme alla Germania e del sistema europeo. Quindi stiamo usando all'incontrario il prezzo basso del petrolio, cioè siccome costa poco, usiamone tanto. Avevamo un'opportunità grandissima, è una finestra che il governo non ha colto, anche perché, insisto, nei precedenti governi di destra e di sinistra si è fatto tanto, l'Italia è diventato un player mondiale sul fronte delle energie rinnovabili, in particolare sul fotovoltaico, abbiamo ormai una produzione elettrica che sfiora il 50% della produzione, complice anche il calo dei consumi e la priorità di dispacciamento delle energie rinnovabili. La nostra legislazione è modernissima su questo fronte, noi abbiamo delle eccellenze anche in termini di managerialità, noi abbiamo sempre avuto due colossi che all'interno di Confindustria hanno un po' dettato le regole dell'anti rinnovabili, erano i nostri grandi operatori internazionali Eni ed Enel, per ragioni ovviamente di bottega che si possono ben capire. Se lei guarda soltanto il passaggio epocale, il cambio epocale che sta facendo Starace all'Enel, cambiando completamente il modello di business sia in Italia che all'estero e convertendo la sostenibilità ambientale, è un passaggio epocale che scriverà la storia di questo paese e la scriverà anche all'estero, perché ormai l'Enel è un player mondiale, cioè non più soltanto nazionale. E paradossalmente la si deve attribuire alla capacità, alla lungimiranza di un singolo manager. Da Pietro Colucci, che come abbiamo sentito è contento dell'accordo di Parigi, ma piuttosto critico di come l'Italia sta affrontando la sfida della green economy, andiamo a Giovanni Tordi, amministratore delegato di Officine Verdi, una società partecipata da Unicredit e Fondazione WWF Italia, specializzata nei campi delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e di carbon management, cioè la gestione delle emissioni di CO2. Per noi questo è un accordo molto importante perché genererà una rinnovata ondata, diciamo, di sviluppo per la green economy, che è la strategia, diciamo, più forte per combattere poi il cambiamento climatico, e quindi sicuramente ci sarà un ulteriore impulso che si aggiunge già a delle direttive europee sull'efficienza energetica che cercano di favorire al massimo recupero di efficienza, quindi con riduzione di CO2 e conseguente contenimento sul riscaldamento del pianeta. Quindi sarà sicuramente un'ondata molto grossa dal nostro punto di vista. È anche un'ondata imprenditoriale, diciamo, no? Direi potrebbe essere una grande occasione. Sicuramente sì. Chiaramente questo comporta uno sviluppo di competenze, per cui è un mestiere nel quale non ci si improvvisa, per questo un po' come gruppo, no? Noi ci siamo dall'inizio orientati proprio sull'efficienza energetica, anche pensando in una logica che prescindesse dalla presenza di incentivi, perché per noi la sostenibilità tecnica, economico, finanziaria e ambientale si persegue anche in assenza di reali incentivi. Quindi insomma, per chi è già pronto questa è una grande occasione, altri invece dovranno ovviamente correre un po'. Questa è un po' anche la situazione che c'è all'interno dell'Unione Europea, che a volte ha obiettivi molto alti ma poi viene un po' tirata in basso dalle varie posizioni dei paesi, o le pare ci sia veramente questa omogeneità con la quale si è presentata l'Europa là, poi è rispecchiata nelle politiche allora, europee e nazionali al cadere. Io penso anche alla nostra Italietta che a volte... Diciamo una cosa, che il passaggio di Parigi è un punto di svolta complessivo, al quale però dovrà corrispondere in modo, ci auguriamo, abbastanza rapido una coerenza delle politiche nazionali o comunque dei vari paesi rispetto, adesso guardiamo per un attimo all'Europa, ad una diciamo politica europea che è già molto ben delineata. Quindi è vero quello che lei dice, ci sono diciamo sicuramente dei tempi di adattamento delle politiche nazionali che devono in qualche modo essere accorciati, perché altrimenti ci sono velocità molto diverse tra di loro, e complessivamente il 2020 è dietro l'angolo, quindi i tempi di attuazione dell'accordo richiedono una reattività e una velocità. Ed era Giovanni Tordi di Officine Verdi. Ora andiamo alla grande impresa internazionale con Angelo Trocchia, presidente e amministratore delegato di Unilever Italia. Giusto per dare un'idea del gruppo di cui stiamo parlando, è quello che raggruppa marchi come Lipton, Knorr, Calvé, ma anche Mentadent, Svelto, Lisoform, insomma ad ampio spettro. Io credo che questo tema diciamo di Parigi si inserisce in maniera perfetta sul discorso che abbiamo cominciato, che Polman ha cominciato nel 2010, che è il piano della sostenibilità per Unilever. Quindi diciamo che siamo assolutamente in linea, noi abbiamo cominciato questo percorso nel 2010 in cui abbiamo detto noi vogliamo crescere, perché un'azienda nasce, vive se cresce, quindi se cresce il business, ma riducendo da un lato l'impatto ambientale e dall'altro dando invece un impatto positivo nel contesto sociale. Quindi diciamo, la COP21 di Parigi si inserisce e risponde esattamente a tutti i discorsi di dire un'azienda che si pone il tema di ridurre l'impatto ambientale. Senta, lei ha detto una cosa che mi incuriosisce, cioè c'era una sorta di percezione, visto che voi lavorate appunto a livello mondiale, dell'impossibilità di crescere con un vecchio schema, con un vecchio modello? Sì, sì, praticamente sì. Diciamo che un'azienda come la nostra, che siamo in 190 paesi, che tocchiamo 2 miliardi di consumatori al giorno, deve porsi il tema di sicuramente crescere, ma crescere in maniera diversa. Non possiamo più crescere ignorando sia l'ambiente e sia il contesto sociale in cui operiamo. Quindi questo è un cambio di modo di pensare diciamo fondamentale, che però è un percorso che con Polman, che è il CEO globale, abbiamo cominciato nel 2010. Abbiamo poi però tradotto in azioni e piani concreti. Credo che questa sia la differenza, perché altrimenti rimane uno slogan teorico. A parole, certo. Rimane uno slogan teorico, invece noi l'abbiamo tradotto da una parte nel tema dell'agricoltura sostenibile, quindi nel tema di avere il 100% delle nostre materie prime che provengono da produttori sostenibili, quindi un'attenzione a tutto il tema dell'agricoltura e un'attenzione al tema della deforestazione, ma in generale al tema della riduzione delle emissioni di CO2. Anche qui non è solo un'intenzione, è un tradurre in piani concreti. Tutte le nostre fabbriche hanno un piano preciso di riduzione di emissioni di CO2, di riduzione di consumo dell'acqua, di riduzione di i prodotti che noi mandiamo in discarica. Le faccio un esempio in Italia per dare concretezza: in Italia oggi tutte e quattro le fabbriche di Unilever Italia non mandano rifiuti in discarica. Tutte e quattro le fabbriche in Italia hanno programmi precisi e dettagliati di riduzione dell'acqua, di riduzione del CO2 e di sviluppare un sistema di energia quasi autosufficiente, nel senso per esempio che due delle quattro hanno impianti di cogenerazione. Senta, visto in quest'ottica, forse per voi l'accordo di Parigi è quasi poco, tra virgolette. Io credo che non è mai poco, noi però consideriamo che questo accordo è l'inizio di un percorso. Unilever Italia sta in Europa, e il vostro rapporto con le politiche per il clima che sono state messe in campo dall'Unione Europea? Ma anche qui, diciamo, noi siamo innanzitutto, anche in occasione dell'evento di Parigi, noi come Unilever Italia abbiamo aderito firmando l'appello per il clima lanciato dal Consiglio Nazionale della Green Economy e quindi che il ministro dell'Ambiente ha portato a Parigi. Quindi sicuramente i temi, diciamo, globali per noi valgono a livello Italia e valgono a livello europeo, quindi non c'è una contraddizione, c'è un assoluto allineamento e tutti i temi che, diciamo, valgono a livello globale si portano poi o a Bruxelles, quindi sui tavoli di Bruxelles, o laddove è possibile sui tavoli italiani, quindi c'è un'assoluta consistenza, anche perché, ripeto, i piani o quelle linee guida che lei citava a livello globale sono poi completamente implementate, completamente allineate a livello locale, quindi noi continueremo a spingere su Bruxelles come abbiamo spinto su Parigi, quindi vediamo un assoluto allineamento sui diversi tavoli. Spingere su Bruxelles implica che forse Bruxelles non è non so, sufficientemente veloce? Spingere questa agenda significa mettere insieme, ripeto, organizzazioni governative con imprese e con anche singoli individui. Quindi la nostra spinta è per avere sempre più tavoli in cui ci si confronti, si vince questa battaglia laddove da una parte ci sono organizzazioni governative, ma dall'altra parte ci sono anche aziende e anche privati. Questa è la spinta anche concettuale, se lei vuole, che di cui noi siamo convinti e su cui spingiamo. E grazie anche ad Angelo Trocchia, ricordo presidente e amministratore delegato di Unilever Italia. Ci fermiamo qui per oggi almeno con la COP21, quindi la conferenza delle parti che ha prodotto l'accordo di Parigi. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini un buon ascolto.